Sezione 15 del Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Renzo Clerico. Il Decameron, parte prima, giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Decima novella. Maestro Alberto da Bologna onestamente fa vergognare una donna, la quale, lui d'essere di lei innamorato, voleva far vergognare. Restava, tacendo già Elissa, l'ultima fatica del novellare alla reina, la quale, donnescamente cominciando a parlar, disse: «Valorose giovani, come nei lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e nella primavera i fiori dei verdi prati, così dei laudevoli costumi e dei ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti, li quali, perciò che brievi sono, molto meglio alle donne stanno che agli uomini, in quanto più alle donne che agli uomini il molto parlare è lungo, quando senza esso si possa far, si disdice, come che oggi, poche ognuna donna rimase ci sia, la quale o ne intenda alcun leggiadro, o a quello, seppur lo intendesse, sappia rispondere. General vergogna è di noi e di tutte quelle che vivono. Perciò che quella virtù che già fu nell'anime delle passate, hanno le moderne rivolte in ornamenti del corpo. E colei la quale si vede indosso li panni più screziati e più vergati e con più fregi, si crede dover essere da molto più tenuta e più che l'altre onorata, non pensando che, se fosse chi addosso gliene ponesse, uno asino ne porterebbe troppo più che alcuna di loro, né perciò più da onorar sarebbe che uno asino. Io mi vergogno di dirlo, perciò che contro all'altre non posso dire che io contro a me non dica. Queste così fregiate, così dipinte, così screziate, o come statue di marmo mutole e insensibili stanno, o si rispondono, se sono addomandate, che molto sarebbe meglio l'aver taciuto. E fannosi a credere che da purità d'animo proceda il non saper tra le donne, e covalenti uomini favellare. E dalla loro millensaggine hanno posto nome onestà. Quasi niuna donna onesta sia, se non colei che con la fante o con la lavandaia o con la sua fornaia favella. Il che, se la natura avesse voluto, come elle si fanno a credere, per altro modo loro avrebbe lievitato il cinguettare. È il vero che, così come nell'altre cose, è in questa da riguardare, ed il tempo ed il luogo è con cui si favella, perciò che talvolta avviene che, credendo alcuna donna o uomo con alcuna paroletta leggiadra fare altrui arrossare, non avendo ben le sue forze con quelle di quel cotal misurate, quello rossore che in altrui ha creduto gittare, sopra sé l'ha sentito tornare. Perché, a ciò che voi vi sappiate guardare, ed oltre a questo, a ciò che per voi non si possa quel proverbio intendere che comunemente si dice per tutto, cioè che le femmine in ogni cosa sempre pigliano il peggio, questa ultima novella di quelle d'oggi, la quale a me tocca di dover dire, voglio ve ne renda ammaestrate, a ciò che, come per nobiltà d'animo dall'altre divise siete, così ancora per eccellenza di costumi separate dall'altre vi dimostriate. Egli non sono ancora molti anni passati che in Bologna fu un grandissimo medico e di chiara fama quasi a tutto il mondo e forse ancora vive, il cui nome fu Maestro Alberto, il quale, essendo già vecchio di presso a 70 anni, tanta fu la nobiltà del suo spirito che, essendo già del corpo quasi ogni natural caldo partito, in sé non schifò di ricevere l'amorose fiamme, avendo veduto ad una festa una bellissima donna vedova chiamata, secondo che alcuni dicono, Madonna Malgherida de Ghisolieri. E piaciutagli sommamente, non altramenti che un giovanetto, quelle nel maturo petto ricevette, intanto che a lui non pareva quella notte ben riposare che il dì precedente veduto non avesse il vago delicato viso della bella donna. E per questo incominciò a continuare, quando a piè e quando a cavallo, secondo che più indestro gli venia, la via davanti alla casa di questa donna. Per la qualcosa, ed ella e molte altre donne, s'accorsero della cagione del suo passare, e più volte insieme ne motteggiarono, di vedere uno uomo così antico da anni e di senno, innamorato, quasi credessero questa passione piacevolissima d'amore, solamente nelle sciocche anime dei giovani, e non in altra parte capere e dimorare. Perché, continuando il passare del maestro Alberto, avvenne un giorno di festa, che, essendo questa donna con molte altre donne a sedere davanti alla sua porta, ed avendo di lontano veduto il maestro Alberto verso loro venire, con lei insieme tutte si proposero di riceverlo e di fargli onore, ed appresso di motteggiarlo di questo suo innamoramento. E così fecero. Perciò che, levatesi tutte e lui invitato, in una fresca corte il menarono, dove di finissimi vini e confetti fecer venire, ed alla fine, con assai belle e leggiadre parole, come questo potesse essere che egli di questa bella donna fosse innamorato, il domandarono, sentendo esso, lei da molti belli, gentili e leggiadri giovani, essere amata. Il maestro, sentendosi assai cortesemente pugnere, fece lieto viso e rispose, «Madonna, che io ami, questo non deve esser maraviglia ad alcun savio, e specialmente voi, perciò che voi il valete. E come che agli antichi uomini siano naturalmente tolte le forze, le quali agli amorosi esercizi si richeggiano, non è perciò lor tolto la buona volontà né lo intendere quello che sia da essere amato, ma tanto più dalla natura conosciuto, quanto essi hanno più di conoscimento che i giovani. La speranza la qual mi muove, che io vecchio ami voi amata da molti giovani, è questa. Io sono stato più volte già là dove io ho vedute merendarsi le donne e mangiare lupini e porri. E come che nel porro ognuna cosa sia buona, pur men reo e più piacevole alla bocca è il capo di quello, il quale voi generalmente, da torto appetito, tirate, il capo vi tenete in mano e manicate le frondi, le quali non solamente non sono da cosa alcuna, ma son di malvagio sapore. E che so io, Madonna, se nelle legger degli amanti voi faceste il simigliante? E se voi il faceste, io sarei colui che eletto sarei da voi, e gli altri cacciati via. La gentil donna, insieme con l'altre, alquanto vergognandosi, disse, «Maestro, assai bene e cortesemente castigate n'avete della nostra presuntuosa impresa. Tuttavia il vostro amor, m'è caro, sì come di savio e valente uomo esser dee, e perciò, salva la mia onestà, come a vostra cosa ogni vostro piacer m'imponete sicuramente». Il maestro, levatosi coi suoi compagni, ringraziò la donna, e ridendo, e con festa da lei preso commiato, si partì. Così la donna, non guardando cui motteggiasse, credendo vincer, fu vinta. Di che voi, se savie sarete, ottimamente vi guarderete. Fine della sezione 15.